Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, siamo all'ultimo appuntamento, termina l'estate, termina Globetrotter 24. Ciao Valeria. Ciao Narita. È una puntata anche un po' speciale perché siamo collocate in due posti diversi. Eh sì, io sono qui a Roma, nella mia città. E io sono a Milano, che non è la mia città ma oramai lo è di adozione, nella bella Milano. Come di consueto, Valeria, partiamo dai titoli. In Italia vi portiamo nel Salento, mare e cultura per tutti i tipi di viaggiatori. All'estero, in Gran Bretagna, tra città entusiasmanti, luoghi storici, ricchi di fascino, campagna incantevole e bellissime coste. Centro a chilometro zero, in Sardegna, sull'isola di San Pietro, un po' di Genova, a Carloforte. Chilometro zero nella seconda regione più piccola d'Italia, in Molise, a Pietra Abbondante, 28 chilometri da Isernia. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie, come se io dovessi mostrar di me quello che ancora non sono stato mai. Anna, ho scelto i Negramaro questa volta perché ti porto nel Salento, e ho scelto questa canzone che si intitola Solo 3 minuti. Io in realtà me ne prenderò un po' di più perché la regione va spiegata approfonditamente. Ti porto in un posto, in una regione d'Italia dove c'è arte e un mare bellissimo. Io ci sono stata più di una volta e davvero merita anche tornarci, perché bisogna soffermarsi. Il mio racconto però, appunto, può valere fino a un certo punto. Per farci dare qualche consiglio più pratico e più puntuale, ho cercato Alessandro. Alessandro è autore di un blog, girovagate.com, idee di viaggio low cost. Sono tantissimi gli spunti che potete trovare su questo blog, sia per l'Italia sia per l'estero, ma come ti dicevo, io mi sono fatta accompagnare nel Salento. Alessandro, ti ho cercato perché con te voglio che tu ci conduca, voglio esplorare, voglio appunto che tu ci accompagni e ci conduca un po' per il Salento. Però prima di farci trasportare dal tuo racconto, vorrei che ci raccontassi un po' di questo blog. Il mio blog nasce nel 2007, quindi è uno dei blog più, diciamo, vecchi della rete per quanto riguarda i viaggi, e racconta molto semplicemente itinerari di viaggio in Italia e all'estero. I nostri itinerari di viaggio sono essenzialmente di coppia e preferibilmente, diciamo, di tipo naturalistico. Ci piace anche viaggiare possibilmente anche in modo diverso, ecco. Cioè, abbiamo fatto viaggi in auto, con zaino in spalla, in treno, anche in bicicletta, un po', ecco, un diciamo, po' di siamo tutto, certo. Classici viaggiatori che magari, ecco, non hanno né prestanza atletica da potersi permettere magari viaggi troppo estremi, però appunto sono... Però tentate, insomma, non vi fate fermare, ecco. Tra l'altro il sottotitolo è molto interessante per quanto ci riguarda, perché comunque si tratta di viaggi low cost, quindi voi siete attenti a quello che è il costo, il portafoglio, e anche per noi questo è un elemento fondamentale nei nostri racconti. Allora, veniamo a noi però, diciamo alla meta che abbiamo scelto questa volta, che abbiamo scelto insieme, e quindi ci affidiamo a te per conoscere meglio il Salento. Da dove partiamo, Alessandro? Io partirei proprio dalla città di Lecce, che tutti conoscono come la Firenze del Sud o la Signora del Barocco. È una città, insomma, bellissima, insomma, che rappresenta, come per, diciamo, il capoluogo toscano che è, diciamo, l'apice del Rinascimento. Lecce è, per quanto riguarda l'arte barocca, è la massima espressione. Si può trovare questa sua caratteristica nelle guglie, nei portali, le chiese, i monumenti, la visazione del centro storico. Quindi diciamo in un itinerario nel Salento che secondo me, ecco, almeno un 4-5 giorni li meriterebbe, almeno una giornata occorrerebbe secondo me soffermarsi, partendo dalla piazza di Sant'Oronzo, che è proprio nel centro storico, vicino alla quale si trova la cattedrale e anche altre delle, diciamo, maggiori attrazioni della città. Infatti tutto, diciamo, è molto raccolto, non è una città grandissima però molto carina. Per dire, una delle tante chiese che insomma merita vedere c'è la Basilica di Santa Croce, che come tutti gli altri monumenti è costruito in pietra leccese, che è appunto una pietra che si estrae nel Salento, di colore che varia dal bianco al giallo per il paglierino. Da vedere ci sono il castello e la villa comunale, che rappresenta un fazzoletto di verde nel centro della città. Tra l'altro, no, scusa se ti interrompo Alessandro, perché Lecce la conosco un pochino, l'ho girata più di una volta, e proprio quello che dicevi, che comunque è una cittadina abbastanza raccolta, permette anche alle famiglie con bambini di girarla senza troppi traumi per i più piccoli, nel senso che non c'è bisogno di trascinarli per ore e ore in giro, ma è davvero semplice da girare, e appunto proprio il fatto che sia tutta raccolta in un piccolo spazio consente, quindi ecco, insomma, anche alle famiglie di girarla non agevolmente. Non c'è bisogno di fare grandi scarpinate, quindi anche per bambini magari, ecco, cioè non, a parte molto spesso sono più i genitori che si stancano perché i bambini questo hanno un'igiene adorabile. Questo è vero, però... tra l'altro quando i bambini sono interessati a qualcosa di bello è molto semplice portarli in giro. Lecce è tutto lì, insomma, è veramente insomma una città da scoprire. Ecco. Ecco, usciamo da Lecce, diciamo, e dove andiamo? Facendo un itinerario, diciamo, marittimo dalla costa nord, diciamo la costa adriatica, passando dall'Euca fino a, appunto, alla costa sud, quella ionica, e quindi la prima tappa, diciamo, è San Casaldo, che in realtà non è insomma una meta di quelle imperdibili, però diciamo è, rappresenta la spiaggia un po' dei leccesi, ha un bel lungomare, insomma come prima tappa, ecco, giusto per una sosta ci può star benissimo. Ecco, da lì si possono raggiungere delle spiagge che sono davvero insomma molto molto carine, come San Foca, i borghi di Tocavecchia e Torre dell'Orso, per esempio, che sono comunque, cioè, ad avere delle spiagge libere, e hanno anche dei lidi privati dove la sera le spiagge si animano e diventano un po' delle discoteche all'aperto sullo stile di Ibiza, diciamo, ecco. Senti Alessandro, una mia doppia curiosità, perché vabbè, la regione è bellissima e questo non è possibile negarlo, ma forse o almeno questo è stato il mio giudizio quando sono andata, è un po' carente per quanto riguarda le strutture, cioè strutture, ce ne sono poche, sì, molto belle, ma diciamo nel complesso forse ecco, volevo capire se anche tu avevi riscontrato questa carenza. Sì, infatti purtroppo questa è un po', diciamo, la pecca del Salento, che non ha tantissime strutture. Ci sono degli agriturismi, sono bellissimi perché sono delle ristrutturazioni di vecchie masserie che permettono di vivere in mezzo alla natura e magari, ecco, cioè di anche rilassarti e apprezzare un po' anche il paesaggio, però ecco, uno ci vada un po' preparato, perché insomma l'offerta ricettiva non è, diciamo, all'altezza di quello che secondo me è la bellezza del territorio. Certo. Un altro, diciamo, punto da tenere presente è la rete dei trasporti. Ecco, chi è abituato a viaggiare in treno qui insomma si trova in enorme difficoltà. C'è una littorina molto carina che fa il percorso sud-est, da una visuale sulla costa che è molto bella, però al di là di quello, ecco, se uno si deve muovere col treno, con l'autobus non ne parliamo neanche, insomma diventa un po' difficoltoso. Quindi assolutamente a noleggio con la propria. Proseguendo nell'itinerario, diciamo che avevo iniziato da Lecce poi verso Torre dell'Orso, una delle mete che insomma secondo me non si possono perdere, insomma è Otranto. Tra l'altro, Alessandro, andiamo diciamo verso settembre più inoltrato e forse anche un periodo buono, molto buono per andare in questa regione, perché come ci raccontavamo poc'anzi c'è meno gente, anche nelle strutture si trova più facilità, e anche a Lecce, che è una cittadina che d'estate è presa un po' d'assalto, è anche più facile girarla diciamo verso settembre, metà settembre, anche ottobre forse, perché le temperature lo consentono. Sì, le temperature sono ancora gradevoli, anche la temperatura dell'acqua consente di fare il bagno, anche insomma addirittura anche fino alla fine di ottobre, inizio novembre, per cui anzi chi ha la possibilità di viaggiare in questo periodo insomma lo tenga presente il Salento, perché se lo può godere sicuramente pieno, al diciamo, meglio. Pieno. Sì, sì. Alessandro, grazie mille. Grazie a te. È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. Anna, ho scelto Meraviglioso, che non è una canzone dei Negramaro, è una canzone di Domenico Modugno, rifatta dal gruppo Salentino, perché secondo me era appropriata a questa parte di Puglia. Però voglio dirti un'altra cosa, perché quando sono andata sul sito di Girovagate, oltre a dare un'occhiata alle mete, ai consigli, tra l'altro c'è una sezione in cui si possono scoprire le 10 cose da sapere prima di andare appunto in un posto, mi sono imbattuta su qualcosa che mi ha fatto subito pensare a te. Ah. Volo in parapendio alla Paganella. Figurati. Vicino Trento. E questo non solo per spingere te a superare la tua paura di volare, e direi davvero in modo netto a questo punto. Nettissimo, nettissimo. Ma anche per sottolineare che su questo sito trovate anche moltissime idee su cosa fare nel tempo libero, poco o tanto che sia, quindi non solo viaggiare ma anche altre attività. Allora, io sul parapendio adesso vado a vedere sul sito, però insomma non so ancora darti una risposta. Invece sul Salento ti dico che l'ho amato moltissimo, ci sono stata in una vacanza, sai quelle che fai tutte sulle donne che poi ti ricordi dopo tanto tempo? Pensa sì, che sì, belle, ogni tanto belle mi viene in mente che eravamo quattro donne sole e c'è addirittura un filmino di quella vacanza che non so dove sia finito, però ecco, è una vacanza che non ho dimenticato, perché il Salento è davvero un luogo magico. Anna, tu dove mi porti invece per la meta chilometro zero? Senti un po'. Chilometro zero. Valeria, anche io ti porto in una meta gioiello, piccolo davvero. Si trova in provincia di Isernia, 28 km alla distanza per la precisione, e pensa che ha 774 abitanti. Si chiama Pietra Abbondante, tutto attaccato, e deve di certo il suo nome alla posizione, che è arroccata tra gli enormi massi che sono chiamati Morge, ai piedi del Monte Caraceno. Si trova dunque, ci troviamo nel piccolo Molise, che è la seconda regione più piccola d'Italia. La particolarità qual è? Che prima ancora di arrivare nel paese, è un posto dove bisogna camminare tanto, e camminare tanto in salita. C'è anche chi ci va in bicicletta, bisogna pedalare, insomma, in una salita abbastanza arroccata. Si incontra che cosa? Qual è la perla di Pietrabondante? Il Bovianum Vetus, l'antico sito ellenistico italico che risale, pensa, al 95 avanti Cristo. Ci sono due templi ed un teatro con sedili in pietra dalla caratteristica forma anatomica, che era utilizzato come luogo di riunione. Nel periodo estivo, in questo periodo, vi si svolgono delle manifestazioni teatrali classiche che sono molto belle e molto suggestive. L'ingresso al sito è a pagamento, ma costa poco, perché costa circa 4 euro. Valeria è una di quei piccoli gioielli d'Italia che vale sicuramente la pena di visitare. Assolutamente, tra l'altro ogni volta che parliamo di queste mete a chilometro zero, al di là di quelle che abbiamo conosciuto direttamente, mi viene sempre in mente che ci sono talmente tanti posti che dovremmo andare a vedere, e il Molise è una di quelle regioni sulle quali si presta sempre troppo poca attenzione. Valeria, adesso ci fermiamo, ma solo per pochissimo. Globetrotter 24. Rieccoci, una meta italiana. Valeria mi ha portato nello splendido Salento e invece Valeria io ti porto all'estero, ti porto in Gran Bretagna questa settimana. Non ovviamente mete classiche, sono tanti tantissimi gli italiani, lo sappiamo, che oramai vivono stabilmente a Londra e dintorni, Londra che però conosciamo già bene. La Gran Bretagna, e questo è il messaggio che vogliamo lanciare, è tutta da visitare. Ce lo ha raccontato Silvia Bocciarelli di un sito, Visit Britain Italia. Visit Britain Italia è l'ente del turismo britannico. Il sito dà tantissimi suggerimenti. Allora sentiamo quali sono quelli della nostra Silvia. E per introdurla io non potevo scegliere un gruppo musicale più britannico. Territorio molto vasto, quindi dobbiamo indirizzare i nostri visitatori della Gran Bretagna verso luoghi specifici. Tra l'Inghilterra, la Scozia e il Galles, che cosa ci puoi segnalare? Da dove vuoi partire? Allora, innanzitutto sono tre nazioni bellissime e tutte le regioni meritano di essere visitate. A titolo esemplificativo potrei dire sicuramente il Lake District nel nord d'Inghilterra. In Scozia particolarmente belle sono le Ebridi interne e il Galles, particolarmente selvaggio e ricco di attrattive, è quello del nord. Partiamo dalla tua segnalazione della Scozia, queste isole cos'hanno di speciale? Sono un po', allora, innanzitutto le Ebridi interne, che sono quelle che sto consigliando in questo momento, sono tre, sono l'isola di Skye, Lewis e Harris e Uist. Sono isole che si possono visitare in poco tempo, quindi non richiedono un grande investimento di tempo, come potrebbe essere invece un tour più ampio della Scozia. Sono facilmente raggiungibili dall'Italia, per cui si può decidere di volare sia su Edimburgo che su Glasgow, e soprattutto l'isola di Skye, che è raggiungibile dalla terraferma tramite un ponte che parte da Kyle of Lochalsh, è un po' un piccolo riassunto di quello che la Scozia ha da offrire, quindi c'è un po' di tutto, ci sono i glen, ci sono le montagne delle Highlands, ci sono villaggi pittoreschi, ci sono castelli, ci sono spiagge, coste frastagliate, paesaggi impervi ma romantici, suggestivi. Tra l'altro è stato girato proprio lo scorso anno il nuovo film su Macbeth, che sarà interpretato da Fassbender, quindi gli amanti del cinema non potranno non riconoscere, esatto, i luoghi di quest'isola in questo film. È un'isola che è adatta a famiglie, coppie e anche chi la vuole visitare in solitudine. Ha moltissime attrattive attività, quindi è una meta perfetta per avere un'idea di quella che poi è la Scozia. Con un breve tragitto in traghetto si possono poi raggiungere le altre due isole, diverse da Skye, però altrettanto belle e attrattive. Per quanto riguarda il Galles invece? Per quanto riguarda il Galles è una nazione molto vasta, che comprende appunto il Galles del Sud e il Galles del Nord. Il Galles del Nord in particolare è ricco di cittadine medievali, per esempio come quella di Conwy, che ospita uno dei castelli meglio conservati di tutto il Galles, famoso appunto per la presenza di tantissimi castelli. Ospita il parco di Snowdonia con il monte Snowdon, che è il monte più alto della Gran Bretagna. Le cuvette non sono altissime, però offrono la possibilità di fare trekking, attività all'aria aperta. È una destinazione particolarmente adatta alle famiglie, i bambini si divertiranno senz'altro in una delle tante ferrovie a vapore, per esempio le antiche ferrovie a vapore che ospita il Galles, e inoltre è una zona bella e incontaminata, quindi si può scoprire la fauna locale, la fauna marina. E anche dal punto di vista gastronomico è molto interessante, infatti in Galles si producono all'incirca 90 qualità dei formaggi, la carne è molto buona, la gastronomia in generale, ecco, ed è sta diventando una destinazione molto famosa anche per il vino, quindi anche la gastronomia è un'ottima ragione per recarsi in Galles. Silvia, tu ci stai segnalando tanti posti per i bambini e questo è importante perché noi siamo molto interessati ai viaggi per le famiglie. Sull'Inghilterra, ci segnalavi l'Inghilterra del Nord, itinerari in macchina, a piedi, che cosa bisogna preferire come mezzo? Dipende dal tempo che si ha a disposizione, ovviamente. Per esempio l'Inghilterra del Nord, il Lake District che stava in Cambria, è sostanzialmente un parco molto vasto, però la lunghezza del parco è di 45 km, quindi in 3 giorni in macchina lo si può visitare tranquillamente. Si percorrono i laghi principali, le principali attrazioni, per esempio si può partire da Levens Hall, che è un bellissimo castello medievale nei pressi di Kendal, che ospita il più grande giardino topiario della Gran Bretagna, e poi passare attraverso Windermere, Grasmere, Altwater, fino a raggiungere Carlisle, che è una città storica molto interessante. Ecco, questo itinerario può essere fatto in 3 giorni. Se poi si ha un po' più di tempo a disposizione, esistono ovviamente tante possibilità per percorrere la regione a piedi, moltissime passeggiate, sia a cavallo che in 4 ruote, insomma le possibilità sono davvero tante. Senti, sfatiamo anche le notizie sul clima. Ci sono cose da fare in Gran Bretagna anche quando piove, sono paesaggi bellissimi e affascinanti anche quando il tempo è un po' uggioso. La Gran Bretagna è ben attrezzata per quanto riguarda la pioggia, perché ovviamente essendo così verde è perché la pioggia c'è, è inutile negarlo, però è anche, questo aspetto rappresenta anche la sua bellezza. Infatti fuori dalle città si è immersi subito in questo paesaggio rurale, idillico, con bellissimi pub antichi, soprattutto in autunno, comunque quando fa un po' più freschino, ci sono fuochi scoppiettanti all'interno, ci sono musei da visitare, ci sono castelli, dimore storiche, quindi anche se si incappa nella classica giornata di pioggia, non mancano sicuramente le cose da fare, da vedere. Senti, il sito di Visit Britain è fatto molto bene, è molto curato e fa tantissime segnalazioni. Ci sono anche dei suggerimenti sui costi, cioè ecco, un'altra cosa a cui noi siamo particolarmente attenti sono i costi. Siamo in un periodo di crisi, ci sono anche delle possibilità di fare una vacanza economica in Gran Bretagna. Sicuramente. In Gran Bretagna esistono tutti i tipi di sistemazione, dagli hotel 5 stelle ai bed and breakfast, che sono delle alternative sicuramente molto, molto buone e consigliate. Quindi direi che è una destinazione davvero per tutte le tasche, per tutte le disponibilità economiche. Sul nostro sito c'è una sezione che si chiama Visit Britain Shop, sul quale è possibile acquistare anche dei pacchetti di viaggio già organizzati. È possibile acquistare dei pass che per esempio consentono l'ingresso a un tot di attrazioni, parte di un circuito, tessere per i trasporti. Ecco, consiglio a chiunque stia programmando un viaggio in Gran Bretagna di fare un giro sul nostro sito e dare un'occhiata anche alle nostre offerte, perché sono veramente vantaggiose. Ecco Silvia, un'ultima domanda, hai parlato di trasporti, i trasporti sono molto efficienti e questo è molto importante per un viaggiatore. Sicuramente, i treni sono in orario, i pullman sono efficienti, sono capillari, quindi è possibile raggiungere praticamente ogni destinazione del paese con il trasporto pubblico per chi non se la sente di guidare sulla sinistra o semplicemente non vuole guidare la macchina in vacanza. Valeria, allora, per riprendere la nostra chiacchierata, l'omaggio di Robbie Williams a Tom Jones, per salutare questa Gran Bretagna un po' speciale, soprattutto quella parte gallese, perché Tom Jones è gallese. Come hai sentito? Allora, questo sito Visit Britain Italia è molto interessante perché ci sono tantissimi suggerimenti anche per chi viaggia in famiglia. Valeria, dove mi porti? Io ti riporto ovviamente in Italia per la nostra meta a chilometro zero e in particolare ti porto in Sardegna. Chilometro zero. Anna, in realtà realtà più che in Sardegna, è vero, geograficamente ci troviamo qui, ma nel posto specifico in cui ti porto c'è più Genova e Liguria che non Sardegna. Ti porto all'isola di San Pietro, dove l'unico centro abitato è Carloforte. L'isola si trova nell'arcipelago del Sulcis, nella parte sud-ovest della Sardegna. Non vorrei divagare da Carloforte, però voglio solo aggiungere che anche il Sulcis vale la pena di essere esplorato. Ci sono ancora alcune miniere che possono essere visitate, poi ci sono dei tramonti di una bellezza senza pari. Però torniamo a Carloforte. Viene fondata durante il regno di Carlo Emanuele III da una colonia di pescatori liguri provenienti da Tabarca, che è un'isola al largo della Tunisia. L'origine ligure dei suoi abitanti la si può ancora sentire, avvertire nel dialetto, nelle tradizioni, nel mangiare, nei costumi, anche nell'urbanistica un po' di Carloforte, perché appunto visitando il centro storico anche visivamente è molto ligure. L'isola di San Pietro si può raggiungere in traghetto, ci vuole poco più di mezz'ora di traversata da Calasetta o Porto Scuso. Ovviamente è una meta che secondo me vale molto la pena, come ti dicevo vale la pena comunque tutto il Sulcis perché è un po' meno visitato rispetto al resto della Sardegna. Ci sono molte calette anche che non c'è molta gente. Veramente si può apprezzare il bellissimo mare di questa parte della Sardegna e anche un po' il fatto di essere ancora un po' più selvaggia rispetto al resto dell'isola. Valeria, io raccolgo il tuo suggerimento anche perché la Sardegna in realtà, mea culpa, non la conosco proprio perfettamente. Ma Valeria, siamo ai saluti. Si conclude un ciclo del nostro Globetrotter 24, quindi io ti ringrazio per tutti i suggerimenti che mi hai dato. Ovviamente io ringrazio te, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguito, che ci hanno voluto dare suggerimenti. Noi ci siamo divertite, Anna, spero che anche chi ci ha ascoltato da casa si sia divertito insieme a noi. Saluti e ringraziamenti esterni per chi ha consentito la messa in onda di questo programma, perché lo ha realizzato insieme a noi. Da Roma? Da Roma il ringraziamento va a Valerio Rocchetti. E da Milano alla nostra Roberta Frisani. Ciao Valeria e grazie a tutti. Ciao Anarita.